Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Diversamente da un tempo, quando sono stanco ora mi riposo. Gestisco meglio lo stress. Non mi faccio più travolgere. Cerco di assaporare ogni momento, ogni emozione. E non freno più una lacrima di commozione davanti a un film. Ciao, sono Alex di Vicenza, sono ingegnere, sono sposato con due figli, ho circa 40 anni, sono un ingegnere in un'azienda multinazionale, lavoro molto con l'estero e ho a che fare con problemi tecnologici complessi. La parola chiave di questa puntata è stress, in qualche modo, e liberarsi dallo stress e trovare il modo per cominciare finalmente a godersi la vita. Quante volte nei discorsi che ci fanno o che facciamo noi, vabbè, parlo per me, quante volte nei discorsi che mi fanno o che faccio tiro in ballo la questione del guarda, non c'ho tempo, è che devo fare delle cose, e il più delle volte sono un po' delle menate, o meglio, magari le cose da fare ci sono, però il tempo per trovare il tempo per stare meglio e godersela di più è probabilmente un obbligo. 349-238-6666, se c'è stata, qual è stata la cosa, la persona o l'evento che vi ha fatto capire che era finalmente arrivato il momento di godersi la vita? Sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui, in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, dalla grande serra del Sole 24 Ore, un programma in cui tutti i giorni raccontiamo una storia. È una cosa semplice, raccontiamo l'episodio, un piccolo episodio della vita di qualcuno che voglia di raccontarla. In questa puntata è il caso di Alex di Vicenza, che ci racconta un episodio che per lui è stato scioccante, perché è venuto a sapere delle cose su di sé e sul suo fisico che lo hanno scioccato. Questo 3 anni fa, no, di più direi, era il 2006, quindi 6 anni fa, e oggi, a distanza di anni, la sua vita, come dice lui, è migliorata. 349-238-6666. Prima di andare alla storia di Alex, ogni tanto noi stessi ci domandiamo, quando ci arrivano le storie e le raccontiamo, profondamente, qual è il motivo per cui qualcuno ci scrive una storia? Perché uno ha voglia di raccontarsi? E ce lo chiediamo noi che abbiamo deciso di fare questo programma, figuratevi quelli che non lo fanno. E ogni tanto arrivano mail come queste che ce lo spiegano. Luciano mi scrive: ciao Matteo, sono Luciano, ho 48 anni. È arrivata oggi sta mail, È arrivata mercoledì, ieri, 20 febbraio, alle 11 del mattino. Ho 48 anni e vivo a Follonica, Grosseto. Se ti capita di guardare una cartina, Follonica è una cittadina che si affaccia su un golfo proprio davanti all'isola d'Elba. Guarda, Luciano, conosco benissimo Follonica, un po' per la canzone dei Baustelle e un po' perché ci ho passato un paio di addio al celibato a Follonica. Cioè, ci sono passato per un paio di addio al celibato a Follonica. È molto tempo che ascolto il tuo programma, di cui sono totalmente dipendente. Vabbè, Luciano, ciascuno c'ha la propria dipendenza, la propria croce. Nel corso del tempo ho maturato la decisione di raccontarti questa mia storia. Non so ancora bene per quale motivo. Ecco, non lo sanno neanche loro, di fatto. Forse, però, nella speranza che, facendolo, questa storia possa esorcizzare la causa della sofferenza che da tempo porto dentro e che ha inficiato un rapporto molto importante per un figlio, che è il rapporto con il proprio padre. Un caro saluto a te e a tutto lo staff, Luciano. Ed eccola qua, la parola chiave in realtà non è stress, è esorcizzare. Le storie alla fine credo che servano a quella roba lì, servano a esorcizzare la vita e forse in qualche modo anche la morte. E sono partito altissimo oggi, ragazzi, perché la storia, forse abbiamo abbassare, dice Tiz, passiamo un po'. Niente, parliamo della solita roba, se cosa parliamo? Di calcio no, di tennis nemmeno, e invece rimaniamo alti perché non lo faccio io, ma più tardi, dopo la borsa, come facciamo ogni tanto quando ci sono argomenti particolarmente complicati, non li affronto io e chiedo di affrontarli a persone che lo sanno fare meglio di me. Nella fattispecie più tardi avremo in diretta Edoardo Camurri, che è un giovane filosofo, pensatore, scrittore, giornalista, editor, vabbè, poi chiedo meglio a Edoardo che cosa fa, che affronta sempre, secondo me, in maniera straordinaria degli argomenti complicati come quello della ricerca della felicità. 349-238-6666. Pietro mi scrive: la cosa che mi ha fatto capire che era arrivato il momento di godermi la vita è stato il mio secondo divorzio. Cesare, dopo che sono guarito. Elisabetta, è stata la nascita di mio figlio. Emanuela, dopo la morte di mia sorella, 20enne. Roberta, non è ancora arrivato, ma aspetto con fiducia che arrivi quel momento. Mattia anche, sono ancora in attesa. E poi Silvia scrive: è stato a farmi capire che era arrivato il momento momento di godermi la vita è stato la mia condizione di zitella, che non ho capito esattamente che cosa voglio dire, cioè se da quando sei zitella ti godi la vita o se a un certo punto hai deciso che dovevi smettere di essere zitella. 349-238-6666, l'hashtag di oggi per il profilo Twitter, se ce l'avete, il nostro profilo è Voi Siete Qui R24, l'hashtag è Carpe Diem. Abbiamo detto tre robe con le dente diverse, cioè abbiamo detto stress, abbiamo detto cos'era l'altro qua, esorcizzare, e abbiamo detto Carpe Diem. Scegliete quello che volete, l'importante è che si parli di quello, del momento in cui avete capito che basta, godiamocela questa. Questo è stato il momento di Alex. Pura follia. Ironia della sorte, proprio in un bar chiamato Pura Follia doveva succedere tutto. Un giovedì di luglio del 2006, c'è il sole. Entro, ordino un caffè, o meglio ci provo, perché il buongiorno, un caffè per favore esce a fatica, farfugliato, quasi incomprensibile. La signora del bar fortunatamente lo capisce, ma io comincio a sudare. Provo a pronunciare qualche parola senza farmi sentire e poi riprovo a voce alta quando vedo che tocca a me pagare, ma decisamente qualcosa non va. La lingua non si muove come dovrebbe. Mi accorgo di sudare e cominciano a passarmi per la testa mille pensieri, tra cui il primo è chiaro ed è netto, ed è la frase «allora non era stress». Sì, perché era iniziato tutto un mese e mezzo prima, un pomeriggio di lavoro di giugno. Sono in ufficio con dei colleghi, mi accorgo che la lingua è un po' pesante, come se avessi bevuto troppo. Provo a parlare con altre persone e cerco di metterci dentro frasi, appunto, lunghe, tortuose, ma nessuno se ne accorge. Nemmeno al telefono, nemmeno in inglese. Strano, forse solo la mia impressione. E in fondo, quanta gente si mangia le parole. Alla sera allungo più del solito la conversazione a cena, chiedo poi a mia moglie se lei si è accorta di qualcosa. No, perché? Mi dice. Le spiego che dal pomeriggio mi sembra di farfugliare, ma non ne sono sicuro. Provo a leggere, a dire frasi lunghe. Sì, forse qualcosa non è proprio normale, conviene lei. Prova ad andare dal dottore, chiedigli cosa può essere. Giovedì pomeriggio è il turno di visita per lavoratori e ci vado. Spiego al dottore la situazione, che ogni tanto la lingua si inceppa, farfuglio, parlo come se avessi bevuto troppo. No, dottore, ovviamente non ho bevuto. Il dottore riflette sulla nostra conversazione, mi fa parlare ancora e dice di non accorgersi di nulla. Eppure, dottore, qualcosa c'è. Mi fa leggere un ricettario medico con parole sconosciute e molto lunghe. E infine anche lui dice che sì, forse qualcosa c'è. Mi chiede se sia un periodo di forte stress. Certo che lo è, dottore, certo che lo è. Ho una diagnosi, diciamo, io so che è certa, però per la gente che mi conosce è quasi certa. Fortunatamente i sintomi sono tutti rientrati, per ora. Il dottore replica che anche a lui a volte capita di avere qualche disturbo quando è affaticato. Fa una telefonata a un amico neurologo, un collega, ribadisce che potrebbe essere stress. Forse bisognerebbe fare qualche esame, magari una risonanza magnetica alla testa. Io però sabato parto per le ferie all'estero, è tutto organizzato, non voglio rimandare. Il dottore allora mi raccomanda di usare le vacanze per riposare, rilassarmi e tornare poi subito da lui. Le vacanze vanno bene, non porto via niente dal lavoro, mi rilasso. Però non era stress. Il problema non è affatto passato. Sono trascorsi 2 mesi, ma stavolta è certo che la mia lingua non si muove come dovrebbe. Al bar i miei pensieri improvvisamente si dividono in 2 tronconi, di cui il primo e più forte è «allora c'è qualcosa che non va». Anche se quasi mi schiaccia, devo nasconderlo subito e custodirlo in una confezione speciale dentro di me. Dovrò proteggerlo dai miei cari per proteggere loro da lì a qualche ora. E poi c'è il pensiero pratico. Che devo fare? Ho appuntamento con 3 tedeschi miei colleghi e un cliente qui davanti a questo bar. Cosa faccio? Torno a casa adesso? Esco, saluto i tedeschi, cerco di comportarmi normalmente, ma la lingua non gira, specialmente in inglese. Identifico vagamente cos'è quella sensazione di sudore che provo alla base dei capelli. È paura. La riunione va avanti per tutta la mattinata, alcune persone le vedo per la prima volta, ma incredibile, neanche chi mi conosce nota niente di strano. Finalmente si va a mangiare, per fortuna sono in auto da solo, perché mi accorgo che anche ingranare la marcia non è sempre facile. Improvvisamente vorrei andare a casa, non ho voglia di mangiare né di imbastire una conversazione. Il senso del dovere o forse la mancanza di alternative mi spingono a fare un ultimo sforzo. Mi siedo, chiacchiero con i colleghi o cerco di farlo, mangio, scambio gli ultimi accordi, saluto tutti e rimonto in auto. Torno verso la mia città. Al telefono il dottore finalmente risponde. A quel punto gli dico semplicemente di aspettarmi e di ricevermi con urgenza. Ho qualcosa di grave. Lo capisce anche lui, forse anche da come parlo. Arrivo nello studio quando sta congedando una paziente. Il dottore sembra altrettanto preoccupato. Bisogna fare una risonanza magnetica, dice, subito. Provo subito a prenotare una urgente all'ospedale. 2 mesi e mezzo, mi dicono. Provo una clinica privata, potrebbero farla martedì. Devo aspettare. 4 giorni in questa situazione. Mi riscopro più forte di quello che pensavo. La paura è ancora tanta, ma mi sono calmato. Riesco a chiamare mia moglie e parliamo. Lei è molto pratica, vuole capire che cosa si può fare adesso. Mi dice che qualsiasi cosa accada, la affronteremo insieme. Insomma, si fa forza. We'll confess that, but it came. Martedì mattina mi sottopongo alla risonanza magnetica. Esco dall'ambulatorio ed ho quasi in escandescenze quando allo sportello mi dicono che per l'esito ci vorrà qualche giorno. Alla fine mi promettono di fare il più in fretta possibile, un paio di giorni, e ce la fanno. Resto senza parole quando leggo l'esito. Lesioni, diagnosi, sospetta malattia demielinizzante. Ho aperto la busta davanti allo sportello, ma devo prendere aria. Esco all'aperto. Non posso chiamare mia moglie. Ho promesso di farlo subito, ma prima devo capire che cavolo vuol dire. Scritto così non promette bene, per niente bene. Mi faccio ricevere con urgenza dal medico di famiglia per la seconda volta in una settimana. Ci vado a piedi e a meno di 1 chilometro ho bisogno d'aria. Ricordo distintamente, in quella breve camminata, di essermi chiesto: mi tocca morire? La prima domanda al dottore ovviamente è: cosa cavolo vuol dire sta roba? Mi spiega che la mielina è la guaina dei nervi e ci sono delle malattie che la danneggiano, inibendone le proprietà di isolante elettrico. Non capisco molto. Il medico richiama il collega neurologo all'ospedale. Per un caso come il mio, un letto in ospedale lo trovano subito. Anche questo non promette per niente bene. Domattina mi ricoverano in neurologia. In ospedale rimango poco più di una settimana. Sono lontano 1000 miglia dal lavoro, dalla carriera, dagli obiettivi. Sono fermo a letto, immobilizzato dalla flebo che mi entra nel braccio. Capisco che non devo morire, non a breve almeno. Capisco a poco cosa sono le malattie demielinizzanti, che al grande pubblico sono note come sclerosi multipla. Dall'ospedale esco senza una diagnosi, ma con una rinata consapevolezza di me, con notizie in più su questa strana malattia che esiste in 1000 varianti. Esistono addirittura casi in cui la malattia si ferma. Mi sento in una nuova vita. Fortunatamente ci sono anche belle notizie. Ho riacquistato la mia parola e la scrittura è decisamente migliore e più fluida. Ho imparato che ci sono degli attacchi e delle remissioni, durante le quali molte volte i danni rientrano del tutto o quasi. 40 anni sono un'età insolita per questa malattia. Se fosse confermata la diagnosi, potrebbe svilupparsi molto lentamente. Differenze concrete nella mia vita pratica, fortunatamente, non ce ne sono. La mia vita è assolutamente quella di prima. Dal punto di vista psicologico e mentale, la mia vita è cambiata completamente, perché ogni giorno vissuto da persona sana è un giorno regalato, è un giorno di vita bella, è un giorno di vita che devo godermi, perché mi sento che domani non potrebbe non esserci. Soprattutto non è una malattia ereditaria. I miei figli non hanno la minima predisposizione ad averla, più di quanto non ce l'abbia chiunque altro. E poi apprendo che lo stress, se non è una causa, è un aggravante ed è curabile. Non mi farò mai più prendere dallo stress. Quando arriva l'esito, che lascia solo un minimo dubbio, ormai sono rinato. Sono io che tranquillizzo moglie, fratelli, le persone che amo. Ho qualcosa, ma me la caverò, non preoccupatevi per me. Sono io che mi organizzo per altri consulti medici, che mi organizzo una dieta quasi vegetariana, per quanto possibile, perché ho trovato un libro che associa la dieta, se non all'incidenza, quantomeno all'evoluzione della malattia. Sono passati oltre 2 anni da allora, e in questo tempo di tutta la mia sospetta malattia all'apparenza non è rimasto niente, o quasi niente. Solo di tanto in tanto ho delle strane sensazioni, specie quando sono molto stanco, soprattutto alla parola, qualche volta alla mano sinistra, forse qualche volta alle gambe. Diversamente da un tempo, quando sono stanco, ora mi riposo. Gestisco diversamente lo stress, non mi faccio più travolgere. Tutte le sere cerco di ricordarmi che, quali che siano le difficoltà e le amarezze, è stato comunque un altro giorno da persona sana. Cerco di assaporare ogni momento, ogni emozione. Non freno più una lacrima davanti a un film. Piango, sì, piango quando mi commuovo, non mi vergogno più, ma non piango mai per me stesso. Se c'è qualcosa che potrei fare domani, cerco di farlo ora, perché domani potrebbe non esserci o essere molto diverso. No, in quel giovedì di luglio non sono morto, sono rinato. Il momento in cui ho capito che dovevo godermi la vita, scrive Claudio, fu un devastante incidente stradale dal quale uscii per grazia divina illeso, a farmi cambiare la vita dissennata ed immorale che conducevo. Fu la netta sensazione di un intervento divino a salvarmi la vita. Oggi sono un uomo profondamente diverso, migliore e soprattutto un essere spirituale. 349-238-6666, se avete voglia di raccontarci come ha fatto Alex, qual è stato l'evento, non per forza così traumatico, così scioccante, anche se al momento lui stesso sembra stare bene ed essere tranquillo, qual è stato l'evento, la persona magari, o la situazione che vi ha fatto scattare qualcosa che vi ha fatto tornare o per la prima volta godere la vita a pieno. 349-238-6666. Alex ha deciso di farlo solo con questo racconto, ci ha chiesto di non intervenire al telefono, e in qualche modo capisco che appunto non avesse voglia di dire nulla di più rispetto a quanto già ci ha raccontato, che era molto dettagliato, lo era ancora di più di così. Purtroppo il programma dura 45 minuti lordi, in mezzo c'è una borsa, prima c'è un GR, poi insomma non abbiamo fatto in tempo e non abbiamo avuto modo di raccontarlo tutto. Come sempre vi chiedo, mandateci se è possibile non più di una pagina di storia, poi insomma vediamo quello che viene. Cristina scrive: è stato il mio sesto figlio a farmi cambiare vita. Da quando c'è lui non mi importa più di riuscire a fare tutto, mi interessa molto di più godermi ogni cosa. Cristina, scusa, uno viene a chiedersi, cioè hai dovuto aspettarne 6 per capire che fare tutto non era un problema. Cristina invece ha sempre a che fare con la vita o con la morte. Cristina: alla morte di mio padre, avvenuta dopo 10 anni che lo assistevo giorno e notte. No, aspetta, che assistevo giorno e notte. Ah, la morte di mio padre è avvenuta dopo 10 anni che assistevo giorno e notte mio marito, che invece era malato. Quello è stato quello che ha deciso, che mi ha cambiato la vita. Visto che noi, ripeto, più tardi avremo un ospite con cui parleremo di questa sensazione, che è quella del che all'improvviso succede qualcosa e hai voglia di goderti quello che viene, di goderti il presente. C'era un filosofo, questo però dovete perdonarmi, dovete immaginare una riunione di redazione di Voi Siete Qui, ok? In cui ci siamo io, Bonini e Margherita Hina, che se non sta cercando qualcuno a 5 minuti di pausa ed è lì con noi, e diciamo chi è che ha raccontato meglio di tutti il desiderio di godersi il presente? E viene fuori sempre una frase, no? E viene fuori sempre un nome. La frase è Carpe Diem e il nome è Epicuro. In realtà su Epicuro sono state fatte un sacco di commistioni strane, sono state lette un sacco di cose che spesso non sono veritiere, ed è per quello che più tardi ne parleremo con un esperto. Però voglio leggervi al volo, ce la faccio? Ce la faccio, dai, sì. Vi leggo al volo 2 righe tratte proprio da una delle poche lettere di Epicuro a Meneceo. Abituato a pensare che per noi uomini la morte è nulla, perché ogni bene e ogni male consiste nella sensazione. E la morte è assenza di sensazioni. Quindi, il capire bene che la morte è niente, per noi rende felice la vita mortale, non perché questo aggiunga infinito tempo alla vita, ma perché toglie il desiderio dell'immortalità. Questo era Epicuro. Voi siete qui. Presente. Aggettivo e sostantivo maschile. Aggettivo: partecipante in modo immediato e attuale in un ambito limitato nel tempo e nello spazio. In grammatica, categoria del verbo destinata a definire l'azione come contemporanea rispetto al momento in cui viene enunciata. Etimo: dal latino presens, presentis, data, secolo XIII. Bene, questa è la quarta parola che abbiamo aggiunto oggi alle parole chiave: erano stress, carpe diem, esorcizzare è presente, ragazzi, perché come dicono gli esperti della comunicazione, un messaggio chiaro e semplice. 349-238-6666. Siamo arrivati a parlare di presente e di tutte quelle robe lì che vi ho citato prima, grazie alla storia di Alex, che riceve un sacco di messaggi di solidarietà, di ringraziamento, che ci racconta appunto come nel suo caso è stata la consapevolezza di una malattia che non ha al momento dato gravissime conseguenze, che lo ha portato a capire che era il caso di forse di godersela un po' di più. Invece c'è Luisa da Padova che mi risponde, sostanzialmente risponde all'apertura del programma in cui io dicevo ancora non abbiamo bene capito perché le persone ci raccontino le proprie storie, i fatti propri, nonostante siano due stagioni che ci facciamo un programma sopra. E lei mi scrive: il motivo per cui si racconta la propria storia è il pensiero che in fondo, se si può parlarne, non può essere niente di così brutto. E io, guarda Luisa, questo messaggio me lo prendo e me lo porto a casa, e credo che valga davvero nel bene e nel male. Cioè, non solo non può essere niente di così brutto, ma anche niente di così troppo bello. Forse appunto raccontare le storie aiuta ad avere un po' più consapevolezza, no? A capire dove si è. E qui si torna a Voi siete qui. Oh, Paolino, non l'avevo studiato, eppure sembra proprio a proposito di principi della comunicazione. Michele mi scrive: ciao Matteo, come possiamo goderci la vita con questo clima politico? Sono diversi messaggi che parlano di come sia difficile gestire le cose private con quelle pubbliche, soprattutto politiche. Io ho la sensazione che ci sia un eccessivo racconto delle cose politiche che ci rovinano sostanzialmente il fegato. Ma è davvero, è più un racconto che il reale impatto, però è una mia sensazione e faccio altro nella vita. Sono uno appunto che si puppa tutta quella roba lì, che si sorbisce tutto l'eccesso di informazione sulla politica. Dal primo 4 di greco io ho capito che la mia vita doveva cambiare. All'inizio mi sentivo malissimo, poi ho capito che la vita va avanti e ho iniziato il mio secondo libro. 349-238-6666. Abbiamo parlato di 4 di greco, visto che io credo che Edoardo Camurri abbia nella sua vita anche insegnato, è arrivato il momento di chiederglielo. Pronto Edoardo? È pronto Matteo, eccomi, come state? Con il consueto entusiasmo di Edoardo Camurri, che potete sentire anche su una radio concorrente una mattina sì, non è una mattina sì, una mattina no, cos'è? Un mese sì, un mese no, giusto Edoardo? Pronto? No, l'ho perso. Forse non è una mattina, è semplicemente un mese no, un mese no. Adesso lo richiamiamo Edoardo Camurri. 349-238-6666. Continuano ad arrivare i messaggi. Per me è cambiato tutto quando ho visto il film Into the Wild. La frase "la felicità è vera solo se condivisa" mi ha fatto abbassare un muro che tenevo tra me e gli altri. È stato come premere un interruttore. Ora va decisamente meglio. Filippo, torniamo da Edoardo Camurri. Edoardo, ci sei? Eccomi, ci sono adesso. Eccoti, eccoti qua. Dove sei in questo momento, Edoardo? Sei a casa, perfetto. Senti, sono a casa con la febbre. Ah, benissimo. Quindi partiamo subito da questo. Visto che stiamo cercando di parlare di piacere inteso come il bene primo, no? Come la raccontava Epicuro. Poi, Edoardo, facciamo così: qualsiasi boiata io dica, tu intervieni proprio a gamba tesa a dirmi no, è sbagliato. Ok, quindi era Epicuro, no? Che diceva che il bene primo per la nostra vita è finché dura è il piacere, giusto? Sì, non va inteso Epicuro nel senso come lo facevano poi i cristiani, che hanno trasformato l'epicureismo in una specie di dottrina della gozzoviglia, no? Ok, infatti, perché questo è un po' un fraintendimento in realtà, giusto, riguardo al pensiero di Epicuro. È una vulgata dovuta a un pregiudizio cristiano, cioè che dire, tu sei un epicureo, no? Per dire tu sei uno che se la gode. Mm-hmm. In realtà poi l'epicuro è tutta la filosofia dell'epicuro, pensate a Lucrezio, no? Che si rifaceva all'epicurismo, una visione anche tragica, profonda della vita, non è una visione banalmente godereccia, ecco, c'è una visione materialista, anche cruda, per quanto poi con delle conseguenze veramente consolatorio. Senti, perché Edoardo, perché secondo te serve e questa puntata e questa storia lo sta raccontando? Perché nella nostra vita serve che succeda qualcosa, nel bene o nel male, no? Ripeto, perché tutti i messaggi hanno a che fare con una nascita, oppure con la mancanza di qualcuno, o con la consapevolezza di una malattia, o la guarigione di una malattia, chi da un incidente. Perché serve che succeda sempre qualcosa per farci scattare il desiderio semplicemente di, la dico male, non all'Epicuro, di godercela un po' di più? Serve che succeda qualcosa, perché sono i traumi che ci consentono di spostare il punto di vista, se no saremmo animali. Cioè, gli animali non hanno storia, l'uomo è l'unico animale che ha storia e che produce narrazioni. Cioè, credo che l'uomo sia l'unico animale che appunto racconta storie, e racconta storie per darsi una spiegazione di quello che gli capita, molto semplicemente. C'è una frase, se vogliamo tornare non tanto Epicuro ma agli stoici, c'è una frase bellissima di Epitteto, no? Che è stato un grande filosofo stoico, eccetera. Sì. Epitteto diceva: non sono le cose a turbare gli uomini, ma le loro opinioni sulle cose. Aspetta, no, Edoardo, fermati. Che questa la voglio ripetere per capire se l'ho capita. Non sono le cose a turbare gli uomini, ma la loro opinione sulle cose. Ma le loro opinioni sulle cose, esattamente. E questo è tutto lì, è tutto questo, ci pensiamo. Cioè, l'uomo è l'unico che ha opinioni sulle cose, uh-huh, per l'appunto, e sono le opinioni sulle cose, sugli eventi, che possono turbare e cambiare l'uomo. Questo peraltro, scusami, visto che a questo proposito arrivavano un sacco di messaggi, non so se hai sentito, che parlavano della felicità e la connettevano alla situazione politica. Vabbè, siamo sotto campagna elettorale, quindi siamo bombardati, è come se la politica fosse, sì, la cosa più importante delle nostre vite private in questo momento e in queste fasi. Quello che dici è totalmente politico, no? L'opinione sulle cose non è altro che prendere una posizione politica, non partitica, intendo dire politica, sulla vita. Un'opinione sulle cose, ma in tutti i sensi, c'è anche un'opinione emotiva, cioè noi diamo una colorazione emotiva a quello che ci succede. Racconto, va, se posso avere 21 secondi, un episodio molto bello. Faccio anch'io l'ascoltatore che porta una sua storia. Edoardo, scusami, visto che ti sentiamo un po' male, riesci a sollevarti dal cuscino o spostarti in un punto in cui ti prende meglio, altrimenti... Guarda, io sono in piedi dritto alla finestra. Ok, allora magari, guarda, solo il microfono un po' più scostato dalla bocca e poi vai. Ok, va meglio? Meglio. Speriamo. Ok. No, dicevo, un aneddoto molto breve. E io ho due bimbe, la mia bimba adesso è la più grande, quando era nata da pochi mesi, a un certo punto rovesciò dell'acqua per terra, uh-huh, e lei mi guardò non riuscendo a dare significato a quello che avevo fatto, Quindi, e mi ha guardato con un'espressione neutra, aspettava da me un'emozione per dare un senso a quello che era successo. Io potevo sgridarla, sì, potevo spaventarla e potevo ridere. Ho riso e lei ha avuto l'emozione del riso a quell'evento. Cioè, sin da piccoli noi diamo emozioni a quello che ci succede. L'uomo è questo meraviglioso essere che è tutto capace di dare opinioni, emozioni, significati a tutto quello che avviene. E forse il segreto sta tutto lì, nel modificare le proprie opinioni rispetto alle cose che stanno da un'altra parte. Rispetto alle cose, ciò che ci protegge sempre sono le nostre opinioni. Senti Edoardo, io prima di lasciarti andare voglio fare una cosa che io non ho mai fatto a scuola, perché ti uso come se fossi un professore di filosofia, sappilo. Ed è questa, che io non ho mai avuto, mai, qui lo dico e proprio qui lo ammetto, non ho mai avuto il coraggio di alzare la mano in classe e dire: scusi, non ho capito. Dicevo, ci sarà sempre un momento, poi fuori a casa lo chiederò a qualcun altro. Invece adesso io voglio leggerti questa frase di Epicuro, che dice: grida la carne, non avere fame, non avere sete, non avere freddo. Chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus può gareggiare in felicità. Ma che esattamente, cioè la carne chiaramente, no, non è il corpo ma è l'individuo, no? Cioè è come se l'essere umano si dicesse: non devi avere fame, quindi devi mangiare, non devi avere sete, quindi devi bere, non devi avere freddo, quindi copriti. E ciononostante, chi ha questi desideri o chi prova freddo, fame e sete, in felicità può gareggiare con Dio. Chi prova queste sensazioni può gareggiare in felicità con Zeus, cioè chi ha fame, sete e freddo può essere felice quanto una divinità. Perché vivo. perché vivo e solo grazie alla vita uno può essere felice. Immagino che sia così. Guarda, Edoardo, mi apprezzo tantissimo il tuo tentativo anche di spiegarmi ste cose che sono abbastanza complicate. Io ti lascio tornare al tuo letto. Cosa c'hai? 38 e mezzo? Allora, 38 e mezzo, 39. Sì, 38 e mezzo, 39. Niente, quindi tra un po' si alzerà. Ti ringrazio per aver partecipato comunque al programma con una telefonata. Tacchi pirina e mettiti a letto. Evviva. Grazie ancora. Ciao, ringrazio Edoardo Camurri, che una volta ogni tanto chiamiamo e cerchiamo di chiedergli cose come questa, ripeto, cioè grida la carne, aspetta, dove l'ho persa? Grida la carne, non avere fame, non avere sete, non avere freddo. Chi abbia queste cose e speri di averle, anche con Zeus, può gareggiare in felicità. 349-238-6666. Sono ufficialmente aperte in quest'ultimo minuto di trasmissione le richieste di spiegazione di questa frase. Mi scrive invece, non so chi perché non si firma, sembra assurdo, ma quel momento per me, quello in cui ho capito che dovevo godermi un po' di più la vita, è stato vedere partorire una gatta che mi ha scelto come ostetrica. Appunto, è una gatta, non è un essere umano, ma ha a che fare con la vita e con la morte. Il mio momento sarebbe arrivato, più volte, mi scrive Dario. Mi manca il coraggio e la forza di prendere in mano la mia vita e mandare tutti a quel paese. Dario, forse perché non è che li devi mandare a quel paese, forse alla fine devi semplicemente dire... non lo so, le cose come stanno. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata di oggi. Ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e ringrazio soprattutto Alex per averci raccontato questa storia, anche se non è stato qui con noi. La storia di oggi, il racconto di oggi era il suo e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Mi chiamo Gregory, sono di Chieri, in provincia di Torino. La storia di domani è la mia e parla di una salita in tutti i sensi. Questa è la mia storia e io sono qui.